America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo l'Ucraina naturalmente che ci preoccupa, ma abbiamo soprattutto l'altro conflitto, quello in Medio Oriente, il califfato. E dunque sentiamo Barack Obama, perché ieri ha fatto un intervento molto interessante, ha presentato al Congresso una nuova proposta di legge per l'autorizzazione all'utilizzo della forza militare. Sentiamo il presidente. Today my administration submitted a draft resolution to Congress to authorize the use of force against ISIL. I want to be very clear about what it does and what it does not do. This resolution reflects our core objective to destroy ISIL. It supports the comprehensive strategy that we've been pursuing with our allies and our partners. Barack Obama, oggi la mia amministrazione ha presentato una risoluzione al Congresso affinché autorizzi l'uso della forza contro l'ISIL. Contro l'ISIL, diciamo, noi lo chiamiamo ISIS, ma l'amministrazione americana si ostina a chiamarlo ISIL, cioè mette il Levante, invece di mettere Siria, la S finale sarebbe Siria, mette del Levante. La proposta AUMF, cioè Authorization for Use of Military Force, l'autorizzazione per l'uso della forza militare. Ecco, la mia amministrazione, dice Obama, non autorizzerà operazioni militari di terra a lunga scadenza che includeranno lo spiegamento di truppe di terra in grande scala, simile a quello che la nostra nazione ha condotto in Iraq e in Afghanistan. Sono piuttosto le forze locali, invece di quelle americane, che dovranno condurre questo tipo di operazioni. Il riferimento alle forze locali è importante, le truppe siriane e irachene stanno combattendo contro l'ISIS, c'è un contesto geopolitico piuttosto interessante. Come sappiamo, la Giordania si è unita allo sforzo dopo l'uccisione del suo pilota, e Obama dice anche che le truppe dovranno produrre supporto addestramento per le forze locali schierate sul campo, compresa la moderata opposizione della Siria, assistenza umanitaria per i civili innocenti in Iraq e Siria. Solo umanitaria? Beh no, non solo. Sentiamo di nuovo Barack Obama. Our men and women in uniform continue to fight against ISIL in Iraq and in Syria. More than 2,000 coalition airstrikes have pounded these terrorists. We're disrupting their command and control on supply lines, making it harder for them to move. We're destroying their fighting positions, their tanks, their vehicles, their barracks, their training camps. Ecco, il presidente conferma che gli americani stanno già combattendo, i nostri uomini, le nostre donne, dice, continuano a combattere l'ISIL in Iraq e in Siria. Più di 2000 attacchi aerei della coalizione hanno martellato questi terroristi, stiamo disturbando il loro comando, la loro linea di controllo e di rifornimenti, la nostra coalizione è all'offensiva, l'ISIL è sulla difensiva e sta per perdere. C'è da capire però come mai Barack Obama, che già aveva annunciato l'utilizzo delle forze militari contro l'ISIL grazie a delle leggi, una legge del 2001, una legge del 2002 che gli consentono di avere un'autorità militare per difendere gli Stati Uniti in funzione antiterroristica, come mai Barack Obama a questo punto presenta formalmente una richiesta al Congresso? Ecco, io credo che ci siano tre direttrici che hanno guidato la richiesta di ieri del presidente Barack Obama. La prima è formale, la seconda è emotiva. Il paese è scosso dopo l'uccisione di Kayla Mull, lo ricorderete, quella ragazza di 26-27 anni che i terroristi dell'ISIL dicono è stata uccisa dai giordani. In realtà sembra che sia stata uccisa proprio da loro, e abbiamo appreso tra l'altro delle notizie molto brutte. Sappiamo che è stata costretta ad unirsi in matrimonio, tra virgolette, a un comandante del terrorismo, e dunque l'America ha ascoltato inorridita queste storie negli ultimi giorni, e dunque il timing di Obama sul piano emotivo, non è secondario. C'è la componente politica, i repubblicani premono per un impegno diretto, urgente, i democratici invece vogliono maggiore prudenza, non vorrebbero neppure gli attacchi aerei, su cui, come sappiamo, Barack Obama si è impegnato da tempo. L'aspetto formale della richiesta di Obama è ovvio, perché il presidente, come vi dicevo, ha già a disposizione due leggi, una del 2002 e l'altra del 2001. La Casa Bianca ha i poteri militari speciali per intervenire contro l'ISIL, ed è grazie a queste due leggi che sono partiti una gran quantità di attacchi aerei che hanno portato alla distruzione di centri operativi militari, di caserme, di depositi di armi, di centri logistici, di almeno 200 pozzi di petrolio, centri di distribuzione del greggio. Questo poi è uno degli obiettivi più importanti, perché è il petrolio che consente il finanziamento dell'azione militare all'ISIS. Si calcola che siano stati uccisi almeno un migliaio di combattenti tra le fila di questi terroristi. Ecco, questi sono dati importanti. Un dato importante è anche che sono gli Stati Uniti che hanno condotto l'80% degli attacchi finora. Ma perché Obama vuole avviare questo processo legislativo nuovo che riguarda direttamente la sua amministrazione? Perché questa è la sua guerra, in realtà. Le leggi del 2001 e del 2002 erano state concesse a George W. Bush ed erano delle leggi che hanno portato poi la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, due guerre che Barack Obama ha chiuso. E dunque lui vuole cancellare il passato, vuole dare anche un approccio abbastanza limitato. Questa legge che lui chiede sia approvata avrà un respiro di non più di 3 anni. Lui crede che in 3 anni si possa raggiungere l'obiettivo finale. Sentiamo in chiusura di nuovo il presidente americano. Today our men and women in uniform continue the fight against ISIL and we salute them for their courageous service. We pray for their safety. We stand with their families who miss them and who are sacrificing here at home. But know this, our coalition is strong, our cause is just, and our mission will succeed. And long after the terrorists we face today are destroyed and forgotten, America will continue to stand free and tall and strong. Ecco, Obama che dice c'è solo un'opzione. Con i nostri alleati e partner ci accingiamo a degradare e distruggere questo gruppo terroristico. I nostri uomini e donne in uniforme continuano la lotta contro ISIL. Gli rendiamo onore per il servizio coraggioso, preghiamo per la loro sicurezza. La nostra coalizione è forte, la nostra causa è giusta, la nostra missione avrà successo. Molto tempo dopo che i terroristi che affrontiamo oggi saranno distrutti e dimenticati, l'America e il mondo continueranno ad essere liberi, forti e cammineranno a testa alta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlateo. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo con le canzoni che hanno vinto i Grammy Awards. Oggi è il turno di Ain't It Fun dei Paramore, che è la miglior canzone rock dell'anno. Il loro brano aveva ottenuto il miglior collocamento nelle classifiche americane, raggiungendo la 10ª posizione di Billboard Hot 100, la 1ª posizione del rock song già nel maggio 2013, ed ecco la canzone appunto di questa band del Tennessee, i Paramore, Ain't It Fun. Non è divertente? I don't mind. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.